Benvenuti a Cellulite e Celluloide, Gabriele Vasquez, buonasera, come va? Buonasera, tutto bene. Allora, parliamo subito del film dell'anno, che se non te l'avessi detto io, non... Avrei perso anche questo, Avresti perso un grandissimo film. Parliamo di Cockney vs. Zombie. Prego. Allora, è un film di cui ho scoperto l'esistenza entrando in questo studio... e che mi sono prontamente informato è uscito in ben 3 paesi in tutto il mondo. Quindi perché questo? Perché è un'avanguardia. Bravo. Cioè, chiaramente, cioè, bravo. Diciamo così, non è per tutti. È un film di un certo livello. Poi te mi hai anche descritto 2-3 scene da cui io poi ho capito il valore vero della pellicola, che prenderò nelle videoteche, mi farò ordinare dalle mie videoteche di fiducia. Non è uscito ancora. Non è ancora uscito? No, in quei 3 paesi è uscito. Sì, però io me lo sono fatto mandare dalla Germania. Dalla Germania. Sottotitolato, okay. Capito? È un buon servizio, chissà quanto ti è costato poi. Guarda, ne ho portato un pezzetto, fra un po' lo vediamo. Ma aspetta, non vorrei che non si può mandare, non vorrei rompere qualche regola. Ah, dici? Non vorrei che fosse illegale mandare dei pezzi benché tu l'abbia acquistato. Ah, certo, sì. Beh, hai ragione, forse è un'anteprima. Non esatto, non vorrei. Ragione, non si può, sì. Comunque, la storia di alcuni giovani ladruncoli. Aspetta, Di rapinare una banca. I lavoratori di un cantiere di Dockland scoprono una segreta sepolta risalente al 1666 e la città di Londra è invasa da un'orda di zombie. Per fermare la loro avanzata, Terry e Andy uniscono le forze con quelli degli abitanti della zona est della città e un gruppo di coraggiosi sboccati personaggi pensionati. E ci sono questi pensionati che vengono, insomma, stavano lì nella casa di riposo per anziani e si ringalluzziscono tutti perché vengono dati delle armi più sofisticate e terribili, mitragliatrici, lanciarazzi, e fanno un inferno. C'è una nonnetta, ha lo stesso attrezzo che ha mia mamma, che è per quelli che non possono camminare, sai, quella specie di sedia, no, che tipo... E lo zombie è lento, lei pure, la vecchietta era lenta e corre per tutto il prato e da morire. Poi c'è quello pure avanguardia. Quello col catetere. Temibilissimo. E glielo dà in testa il bastone di ferro per reggere. Glielo dà in testa. Qualcosa di meraviglioso. Stavolta. Poi vengono armati, fucili a pompa, e vedi ste nonnette, sti vecchietti che pom! Cioè, io spero che duri 80 minuti, 70 minuti, cioè un'oretta e poco dura più. Un'ora e mezza, perché la trama, diciamo, è importante anche quello. Okay, okay. Però lo consiglio appena uscirà. Cockneys vs. Zombie. Stavolta. Capolavoro. Prenderà degli Oscar, secondo me. In odor di Oscar. Prego. Oh, so che sono... Scusa, prego, inserisciti pure. Posso permettere? Sì. So che sono usciti da fonte certa un sacco di bei film italiani. È così. Confermi? Confermo. Quindi è sicuro? Sì. Qual è la tua fonte certa? C'è la fonte certa. Vabbè, c'è la fonte certa. Allò. Lui sì che è un giornalista. Lui sì che arriva prima, questa è la verità. Porta registi. Allò viene prima, questo è il motto. Allò viene sempre prima. Ma è vero, anzi io penso, quando tu mi hai interrotto, stavo giusto per dire questo. Ovvero che sono usciti in sala quelli che saranno i due film di Natale, anche se poi a ridosso del 24 usciranno Antonio Albanese con Tutto Niente Niente, I Soliti Idioti 2, il film di Christian De Sica, e usciranno vicino a Natale. Però adesso sono usciti quelli di Natale, cioè quelli con gli alberi di Natale, la neve, con l'atmosfera natalizia, che parlano del Natale, italiani. Ed è una sorpresa incredibile, perché sono due film, uno è molto carino, l'altro è molto bello. Cioè, cosa a cui veramente non siamo più abituati, che il film ufficiale di Natale italiano sia un bel film, una bella commedia, sempre da ridere, sempre nulla di ponderato, ma fatto benissimo. Io parlavo dell'amore imperfetto. Tu parlavi dell'amore imperfetto? No. Aspetta. Se tu ci tieni. No, no, aspetta, per forza te lo dico. No, te lo dico subito, l'amore imperfetto io non l'ho visto, avevo da fare. Perché ho saputo che lo vedeva loro, ho detto, ma perché lo vedo anch'io? C'è già lui. Mi si dice che sia un bel film. Ma infatti andrò a vederlo al cinema. Mi si dice che sia un bel film. Bene. Poi, sai. con questi critici già sempre sempre presi con le pinze. So che il primo ruolo serio di Anna Foglietta, che è un'attrice che ha fatto un sacco di commedie, è la escort di nessuno mi può giudicare lei. E questo qui invece è un film molto serio, molto duro. Infatti ero curioso, sarei sicuramente andato a vederlo. Io invece vedi, ti ho preso in castagna. Ma parliamo dei film di Natale. Avevo questa grande bomba, questa notizia che il cinema italiano di Natale è bello. E tu mi prendi. Questa è un'altra notizia. Ma sì, ma minore. Ammettiamolo, minore. La tua no. No, questa cosa questa dei film italiani. No. La mia è una maggiore, sicuramente. allora, dicevo, già settimana scorsa ne avevamo parlato e un po' mi ero stupito di Il peggior Natale della mia vita, che è un film, senza esagerare, adesso non è che stiamo a dire che chissà che è, però è un film molto carino, semplice, tranquillo, popolarissimo, ma molto carino, molto ben fatto. È quel film, vado velocemente perché appunto l'abbiamo detto la settimana scorsa, è quel film con Fabio De Luigi, un grandissimo Diego Badantuono e Antonio Catania, che ripropone un po' quelle dinamiche da Ti presento i miei, quelle dinamiche il fidanzato della figlia che fa una marea di casini quando si trova a casa del padre di lei. Un film sfascione. Esatto, un film sfascione, proprio film sfascione nella tradizione di Peter Sellers, direi, capito? Ripeto, è molto carino, è molto ben recitato, è piacevolissimo proprio. Invece questa settimana ne esce un altro che è proprio un bel film, sempre di Natale, sempre italiano. Si chiama La famiglia perfetta, c'è cioè Sergio Castellitto che è il protagonista. Bravissimo. Ma non solo, lui è il protagonista, quello ufficiale, ma in realtà quello che tiene le fila di tutto e manda avanti il film alla grande è Marco Giallini, il grandissimo. Chi è? Il terribile della serie Romanzo Criminale. Ah, ma veramente? Attore mostruoso, bravissimo. Ed ha una trama stranissima. Perché questa è una nota da grande critico. Attenzione, è un momento da grande critico. La cosa particolare è che sia il film Il peggior Natale della mia vita, che prende un format americano o inglese, insomma, che non ci appartiene. Noi non facciamo questi film dove si sfascia tutto, non siamo tipi. Sia quest'altro sono film non italiani. Quest'altro qui è un remake di un film spagnolo. Quindi i due film di Natale vengono da altre parti alla fine, sono fatti da noi ma affondano le radici in altre nazioni, in altri tipi di cinema. Questo in particolare racconta la storia di questo ricco magnate, Sergio Castellitto, solo, che decide per Natale di affittare una famiglia, cioè prende una compagnia di attori scalcinati, cioè gli unici che sono liberi a Natale, che fanno i presepi viventi, fanno queste cose, li riempie di soldi, gli dà anche proprio un copione, obbligandoli tutto il giorno di Natale a fingere tutto il giorno di essere la sua famiglia. Lui assegna i ruoli e tutto quanto, ma chiaramente, avendo assegnato tutti quanti lui i ruoli e pagando moltissimo, gestisce questa cosa con pugno di ferro e con terrore. Cioè loro sono terrorizzati da fare qualsiasi errore perché non prenderanno i soldi se sbaglieranno. E questo dà il via a una serie di gag straordinarie. In tutto questo Marco Giallini tiene le fila perché interpreta quello che nella compagnia di attori è il capocomico, è quello che cerca di, quando gli altri dicono basta non lo voglio più fare, cerca di tenere tutti quanti uniti, cerca di salvare sempre la baracca, e alle volte ci riesce in una maniera straordinaria, e per cui alle volte fa lui le gag, altre volte fa la straordinaria spalla, insomma è veramente bravissimo. E questo film non solo è molto divertente, fa veramente molto ridere, e poi appunto con un umorismo alla spagnola molto cinico, che tutti stanno appresso ai soldi, ma è in grado anche di dire una serie di cose, perché la famiglia che questo ricco e solo decide di farsi, cioè è curioso quale famiglia lui ha voluto per sé, come immagina la famiglia perfetta, che è un po' la famiglia di pubblicità, ma lui prevede anche, nel suo copione, ha previsto anche delle cose brutte di questa famiglia, che si tradiscono, si fanno delle angherie l'un con l'altro, il che è curiosissimo. E bella, poi... intelligente, però non è una regia, non è una scritta da italiani. No, è una cosa adattata, cioè quello con lo spagnolo è diverso, l'impianto è questo, per esempio quello spagnolo si ambienta durante il compleanno di lui, mentre invece noi non l'abbiamo ambientato a Natale perché ci conviene, certo. Per cui ci sono una serie di cose, però insomma comunque... Dici che mi sfonda? Ma chi lo sa, in realtà devono dare tutto adesso, hanno tipo 2 settimane per dare tutto, perché poi arrivano Antonio Albanese, Christian De Sica, i soliti idioti, quelli... triturano tutto quello che incontrano lo maciullano. Ma l'attore è quello che ha fatto... come si chiama? Mi sento tra le nubi. Com'era quel film? Cado dalle nubi. Checco Zalone. Sono 2 anni che aveva detto io sparisco per 2 anni. Ed è sparito per 2 anni. Ed è ufficiale. Beh, ha fatto, secondo me, risale un anno fa, Una bella giornata, che era quello dopo Cado dalle nubi. No, parlo dell'ultimo film, sì, che è una bella giornata. Una bella giornata. Un anno e mezzo fa anche. mi sembra un annetto fa, secondo me, a settembre scorso. Io sparisco, dopo il film, sparisco per un anno e mezzo, due. E così fu. E è sparito, giustamente, bravo. Perché lì stava a palla, lì. Sì, no, esatto, era veramente ai massimi livelli. Quanto ha fatto? Ha fatto, Canto delle Nubi ha fatto più di 30, sarà avvicinato alla quarantina, che è tantissimo. Una cifra esorbitante. Ci vedo, è stato il campione della sua annata. E quello dopo era andato un po' peggio, ma comunque siamo a cifre altissime, assolutamente. E della stessa... E lui era... La casa di produzione era una casa nuova, cioè era il Tau 2, che era un produttore televisivo che aveva fatto poche cose al cinema e ha azzeccato sia quello sia i soliti Idioti, che anche era andato in una maniera pazzesca, e con due film è diventato tra i più grossi produttori italiani, con questi incassi di questa grandezza, chiaramente. E non si sa nulla se sta facendo un film, se è uscito dal letargo. No, al momento niente, al momento niente. Assolutamente niente. Bravo, bravo, mi piacciono quelli duri e puri, che dico una cosa è quella. Per due anni non ve voglio più vedere, non me vedete più. Va bene, abbiamo parlato in romanesco. Cockneys versus Zombie, ve lo consigliamo. Ma andiamo avanti. Allora, io ti do un'altra grande notizia, ti do così, perché voglio sciorinare notizie. Mastrandrea, ieri stava al concerto di Mark Lanegan. Ah, però. Il grandissimo Mastrandrea. Ma tu lo sai perché lo sai o lo sai perché l'hai visto? Lo so perché no, non c'ero, non era al concerto, purtroppo altre cose da fare. Sarei andato volentieri a vederlo, però c'era pure lui. Me l'ha detto chi di dovere. Tu c'hai, perché hai un uomo in ogni luogo, certo. Mi sembra anche giusto. Mi sembra anche giusto. Bravo, bravo Mastrandrea, bravo. Ascolta buona musica. Già mi stava simpatico, così mi sta ancora più simpatico. Allora, invece la notizia che volevo dare è che torna al cinema per una giornata, e non ve lo perdete, Ritorno al futuro. Cioè tutta la trilogia torna al cinema, si comincia col primo, il 5 dicembre, poi nel 2013 arriveranno anche il secondo e poi il terzo, fanno queste uscite mirate. Chiaramente come per C'era una volta in America, il programma prevede che esce in un solo giorno, punto e basta. Se dovesse andare bene, si allunga. È il 5 dicembre, per cui non potete averlo. Vi dico anche subito le sale di Roma, perché sono già state decise quali sono le sale a Roma che proietteranno il film. Sono un po', ve le dico velocemente, ma insomma poi su internet si trovano. The Space al Parco dei Medici, The Space alla Piazza della Repubblica, UCI Roma Est, Stardust Village, Lux, Odeon, Barberini, Andromeda, UCI Marconi, Adriano, Broadway, Atlantic, Madison, UCI Porta di Roma. È vero, perché ci sono i giovani che non hanno mai visto al cinema. Esatto. Tipo io non l'ho mai visto al cinema. Non hai visto al cinema? No, ero troppo giovane. Lo so, infatti io sono tra quelli guarda, che. Guarda, se non sei mai stato al cinema, fa tutto l'altro. Chiaramente stra rimasterizzato, stra HD, 2K, tutto chiaramente con tutti gli onori del caso, perché ovviamente poi, questo lo capite da voi, l'obiettivo poi più grande è lanciare il Blu-ray, chiaramente, però insomma è un'ottima occasione. Ah, quindi l'hanno digitalizzato, perché all'epoca era pellicola, se non sbaglio. Esatto, assolutamente. Quel periodo lì era ancora pellicola. Rigorosamente, e fanno uscire chiaramente il mega cofanetto, per questo poi li fanno tutti e tre. Io andrò all'Adriano. Quindi a che ora e che giorno, così veniamo tutti con te? 5 dicembre all'Adriano, però purtroppo non ti so dire lo spettacolo. Sai perché? Perché io voglio andare a un'ora, ma io già so che la persona con cui vado vorrà andare a un'altra, quindi non so dirti chi vincerà tra vince i due. Lei sicuramente. Ma guarda, ma non è detto, io faccio vabbè, ma lasciamo stare. Secondo me vince lei e basta, punto. 3 del pomeriggio. Le 5 leggende. Oh, le 5 leggende. Allora, Le 5 leggende è il cartone di Natale. Cioè, non usciranno altri cartoni. Cioè, ne escono altri, ma sono robetta, cartoni indipendenti, roba. Questo qui è il cartone, quello di peso di Natale. Tant'è che tra i protagonisti c'è Babbo Natale, c'è una cosa fatta a regola d'arte, chiaramente. È un cartone... A me non è piaciuto molto. Lo dico prima ancora di raccontare di che parla. A me non è piaciuto particolarmente perché l'idea poteva essere buona, ma in realtà vive di piccoli momenti. Boh. Hanno voluto fare, praticamente, visto il successo dei Vendicatori... e di quel tipo di film, hanno voluto creare una specie di Vendicatori, ma con i personaggi delle feste. Cioè, Babbo Natale, il Coniglietto Pasquale, Jack Frost, l'Omino dei Sogni e la Fata dei Denti si mettono insieme per combattere l'Uomo Nero. Che giustamente, questo è corretto. Sì. Chiaramente la cosa suona molto scalcinata, il film non è scalcinato, è fatto con tutta la professionalità del caso, però secondo me alla fine manca di... È un cartoon, esatto. Secondo me alla fine manca un po' di vero interesse, è un generico, sai, cartoni come ne abbiamo già visti. quindi vedo già che vuoi partire col trailer. Ci sta, se non sbaglio, adesso io purtroppo l'ho visto in lingua originale, ma in lingua originale Babbo Natale è doppiato con accento russo. Non so se questa cosa poi sarà anche portata nella versione italiana, ma vediamo pure. Giro il mondo da un bel potiere. Mi chiamo Jack Frost. Adoro stare per conto mio. Arrivo! Niente regole, nessuna responsabilità. Non potrebbe andare meglio. Ma lui è cattivo? No, lui è Jack Frost. Dalla bufera del 68. Lo spirito della neve. La domenica di Pasqua, giusto? Sei ancora arrabbiato per quello, sul serio? Sì, ma ora si tratta di un'altra cosa. Ragazzi! Eccolo qua, Jack Frost. Babbo Natale, wow. Spero che gli Yeti ti abbiano trattato bene. Sì, adoro essere sbattuto in un sacco e lanciato in un portale magico. Oh, bene, è stata mia idea. Wow. Ma è un Babbo Natale gigantesco. Sì, con le spallone. Con i tatuaggi buoni e cattivi. Mano destra buoni, mano sinistra cattivi. Sì. Sono un coniglio. Il nostro compito è proteggere tutti i bambini del mondo. Ora dobbiamo affrontare la minaccia più grande. Che sogno adorabile. Qual è la cosa più potente? È la paura. Ci serve tuo aiuto. Perché il mio? Tu hai qualcosa di molto speciale in te. Non possiamo farlo senza te. Andiamo! Sandy? Sandy? Sveglia! Ah, hanno anche la slitta supersonica. La paura, Jack. Io non ho paura di te. Noi siamo una squadra. Tu pensi a quelli a sinistra, io penso a quelli a destra. Ali al vento, damigelle, niente pietà! Siamo! Come al solito voglio sapere, il montaggio è meglio del film? Ma guarda, allora il film, qui l'operazione è molto chiara. Vogliono farne, se andrà bene, vogliono farne più di uno. Si capisce vedendo il film, perché gli hanno creato una mitologia intorno. Cioè queste figure nascono tutte quante dalla luna. Cioè la luna, che non si capisce bene in quale maniera, comunica con loro. Quindi c'è come qualcosa che gli preesiste più grande. È chiaro che stanno creando un universo, tant'è che a produrlo c'è Guillermo del Toro, che ha scritto L'Hobbit, il film chiaramente, ha scritto, ha diretto Blade 2, ha fatto, insomma, è un espertone di questo tipo di film, e ha alcune scene molto belle. Cioè la scena dell'inizio in cui nasce Jack Frost, che sembra guardare alla luna, già è degna del miglior cinema. Però il resto è molto ordinario, in realtà. Lo svolgimento è molto canonico. Per carità, i bambini. Per carità. Però in certi momenti ti fa sperare di più. Tu, diciamo, devi tornare bambino. Nel mio cuore. Quando devo trovare nel mio cuore. Devi tornare bambino, fanciullo. Cioè, trovare il fanciullo che nel è in critico. Te, il fanciullo. E dire, il accidenti, piccolo io critico. Fanciullo. Questo film è bellissimo. Perché... Ma secondo me a me fanciullo non sarebbe piaciuto. Non sarebbe piaciuto. Vabbè. Va bene, andiamo avanti. Delusissimo, delusissimo. La recensione, delusissimo, delusissimo. Una pessima recensione. Allora, invece, ti ricordi che io ti avevo detto, ma te l'avevo detto perché chiaramente era, aveva un suo perché questa cosa, che Gran Torino è l'ultimo film d'attore di Clint Eastwood. Basta, basta, non recito più. Esce questa settimana il nuovo film d'attore di Clint Eastwood. Come mi disse Robert Fripp molti anni fa, quando lo intervistai, che venne con la Lega dei Chitarristi, gli domanda è: mai King Crimson? Non farò mai più, non riunirò mai più King Crimson. Dopo due anni, subito, tac, ha fatto 7 dischi, 40.000 concerti. E insomma? Insomma, mai più film d'attore, adesso basta. Esce questa settimana di nuovo in gioco, che è un film non di Clint Eastwood, ma con Clint Eastwood, che racconta, certo, secondo me l'hanno conquistato perché la storia è su misura per lui proprio. Racconta la storia di questo personaggio fatto a misura di Clint Eastwood, un vecchio scorbutico d'altri tempi, un uomo del passato che fa il talent scout per le squadre di baseball e che disprezza qualsiasi cosa moderna, anche il fatto che la figlia sia vegetariana, una cosa che odia, che però sta invecchiando e ha dei problemi di vista, e chiaramente per uno che deve scovare talenti è un problema, e quindi farà questo viaggio assieme alla figlia che gli dà una mano per andare a vedere questo, teoricamente questo talento che gli hanno chiesto di visionare. In questo viaggio scoprirà varie cose con la figlia, insomma, è un film molto ordinario, cioè non somiglia ai film che Clint Eastwood fa da regista, ha solo questo suo ruolo che è molto simile. A me, devo dire, non è piaciuto. Perché è molto, molto, molto sempliciotto, molto prevedibile, tantissimo. Vive solo. Adesso non ho visto il trailer, ma sono sicuro che nel trailer ci saranno quelle tre battute carine del film. Vediamo. No. Allora vuol dire che posso entrare? Cos'è un nuovo stile di arredamento? È Feng Shui, non sai niente. Gus Lobel è uno dei migliori scout che il baseball conosca. Ha visto talenti anche da un aereo. Gus Lobel! Perché mi fissate? Non sono una spogliarellista. Benvenuta nel consiglio dei soci. È quello che voglio. Lei sarà l'unica donna. Mio padre è uno scout di baseball. Ho avuto intorno uomini che bestemmiavano e scorreggiavano. Dammi questo cazzo di conto. Ce la posso fare. Devi farti vedere da un oculista. Come puoi valutare questo tizio se non ci vedi bene? Non mi serve il tuo aiuto. Perché non torni a casa? Perché sento questa disfunzionale necessità di assicurarmi che tu stia bene. Quanti anni aveva Mickey quando... Sua madre è morta. Sì. Come ha fatto a gestire tutto da solo? Non l'ho fatto. Solo un vigliacco lascia sua figlia. Non sai la metà di quello che credi di sapere. No, io no. Ti va di andare a cena? Vuoi dire insieme? È un po' sfacciato, ma se mi stai chiedendo di uscire, sì, accetto. Un film di Natale è proprio un feel good movie. Infatti ho detto, è molto deludente e prevedibile. Non vieni? Tu sei fuori. Mentre lui si tuffava, c'è un adesso un passaggio del trailer dove c'è un ragazzo che si tuffa nel lago. Su internet ho scoperto e ho scovato un video amatoriale, credo in non so se in Russia o dove, dove c'è una piscina in pieno inverno e ci sono questi che riprendono, ma è tutto vero, tutto vero. Si butta ed è ghiacciata, si spacca la schiena. Ma lui lo sa da prima che è ghiacciato, ma lo fa lo stesso? No, sa che è fredda perché è inverno, ma non sa che è ghiacciata e non sembra ghiacciata. Si butta e si trova toc. Adesso mi è venuto in mente guardando questo coso. Vabbè. Insomma, ordinarissimo. Alla fine, chiaramente, poi il vecchio Clint capirà molto meglio degli altri, anche se non ci vede, che quello lì non è un vero talento, è una bufala, da come dal suono della mazza che fa quando colpisce la palla, cose proprio da... Vabbè. È il vecchio Clint. È Clint. Sì, no, ma gli credi veramente solo perché è Clint, solo per quello gli credi. Certo, andavo io, facevo ridere, anche questo è vero. Però insomma, ripeto, si chiama di nuovo in gioco, ma è abbastanza deludente. E invece Lawless... Oh, Lawless è anche... Guarda, sono tutti film deludenti questa settimana, perché pure Lawless... A parte i film italiani sono tutti deludenti. Incredibile, chi l'avrebbe mai detto? Lawless è un film, pensa, che io ho visto, pensa, a Cannes l'ho visto. Ah, perché pensa. Tu vai sempre a Cannes. Sai, è un po' una mia fissa. Lawless è un film America profonda, anni 20, proibizionismo. Questa famiglia, il cui patriarca, il fratello più grande... è Tom Hardy, che è il Bane di Batman, ma anche uno dei due fratelli di Warrior, insomma un attore che si vede parecchio, e c'è questa tipica storia americana di criminali che cercano di farcela, cioè che fanno sempre più soldi col commercio illegale di whisky, poi il fratello piccolo si lascia prendere, esatto, e il suo pregio è che è molto violento, cioè è un film che dà giù molto pesante sulla violenza, è un film proprio su quello. Questi fratelli sono terribili, a un certo punto il piccolo stesso ha paura del grande perché fanno cose terrificanti. Però è un po'... era un film che stava al Festival di Cannes, ha molte ambizioni di essere un film da grande autore, quindi poi a dispetto di una trama anche gretta in certi punti, in realtà ha tutti dei tempi dilatati che secondo me poi non sanno gestire. Non sono quei bei film belli lenti, che mi piacciono un sacco, è un film brutto lento. Un film lento, fatto apposta lento, sì, ma è fatto male. Qui rallenta un po' che mi serve un po' di punti autorialità, capito? Ah, è così. Ecco, campo lungo. Esatto, allunga sto campo, vai. Telecamera a mano, aspettiamo che arrivi. Nessuno ha fretta qui. Ti va di fare un giro con me qualche volta? Io lo so chi sei. Ah sì, cioè? Uno dei fratelli Bondurant. Mio padre pensa che siate la cosa peggiore della contea di Franklin. Di' a tuo padre che lo segua. Dicono che cerca qualcuno che le dia una mano qui. Allora, signor Bondurant, il posto è mio. Sembra che siate coinvolti in delle attività illegali. Lui è il nuovo vice sceriffo. L'hanno mandato dalla città. Anche il vice sceriffo non ha una bella faccetta. Non è simpatico nemmeno lui. No. Sono quello che ti renderà la vita molto difficile se non righi dritto, Bifolco. Io sono un Bondurant. Noi non ci facciamo piegare. Quelli che ti hanno aggredito lavorano per gente pericolosa. Da queste parti si dice che i Bondurant siano indistruttibili. Cioè immortali. Ma lei lo sa quello che un Mitra Thompson può fare ad un immortale? Siamo dei sopravvissuti. Controlliamo la paura. Perché senza la paura saremmo già spacciati. Ah, e gli muore un fratello e quindi si vendicano. Qui, quando muore il fratello non ce n'è per nessuno. Immagino. Muore il fratello di mezzo, rimangono il grande e il piccolo. E lì non ce n'è per nessuno. La guarda, sai come ti accorgi che un film tratta con serietà il tema della violenza? Dal rumore dei cazzotti. È tutto lì. Perché al cinema il tatto non esiste, è un senso che non c'è, cioè, non esiste. E il tatto, l'odorato. E anche l'odorato. Però il tatto è l'udito. Cioè il rumore che fanno le cose, quindi i cazzotti, ma anche gli oggetti che cascano per terra, ti dà la sensazione di che materiale sono fatto, quanto sono duri, se sono morbidi, è tutto con i rumori. Dal rumore che hanno i cazzotti capisci subito se è un film che vuole trattare la violenza così, per ridere, tanto in maniera tranquilla, o se ti vuole dare fastidio, ti vuole impressionare, ti vuole scuotere. E qui scuote. Sì, questa qui è molto ben trattata. Acuta, qui è... acuta questa osservazione. Da grande critico navigato. Dove l'hai letta questa cosa qui? Su una cosa dialoga aveva scritto. Lui sta avanti. Bello, devo andarlo a vedere. È uscito al cinema? Esce questa settimana. Pensa che casualità. Oh, esce questa settimana. Andiamo a fare una tripletta al cinema. Pam pam pam. Sì, è uno dei tre. Quelle triplette dove intendi che tu paghi un biglietto, poi ti nascondi nel bagno e esce lo spettacolo dopo. Questa è la tua tecnica nota. No, di solito vado a vedere due o tre film insieme. Solo che questa settimana credo che andrò a vedere solo questo. Perché Melina con rabbia. E con no, questo sapere... Melina non è stato neanche presentato alla stampa, cioè roba minore, dei minori. È un minore. Invece Itaker è un film particolare, ci sta Michele Placido in un piccolo ruolo, è una storia di emigranti. Cioè emigranti italiani in Germania che finiscono nella malavita italiana. È un film, guarda, che in certi momenti, specie quando c'è Michele Placido, sembra dare il suo meglio. Invece poi nel resto della storia, questa storiella d'amore dell'emigrante con un bambino che si è portato dietro, che non è suo ma se lo porta dietro perché così riuscirà a entrare in Germania e poi se lo deve accudire, quella stenta un po' di più. Mentre invece... le parti più gangsteristiche sono un po' più serie, ti danno un po' più l'idea. Però purtroppo c'è come un sapore di fiction televisiva, cioè quei temi da grande Italia, l'Italia dei grandi valori. Vi ricordate i nostri emigranti? No. Insomma, è un po'. Poi l'Istituto Luce. Ma dove sta tuo padre? Al prete tu vedi, tu che lo conoscevi, mio padre. Per Voten proibito rigorosamente l'ingresso agli italiani. Allo! Allo Itaca! O entri lì dentro e custodi dai poliziotti. Ti ci portano loro da tuo padre. Oh! Ma si può sapere che vuoi? Viaggio pensa alla vita mia! Che non mi aiuti a portare la valigia, Che è sta storia di questo ragazzino che ti porti dietro? È una cosa complicata. Pensiamo alla fatica che è meglio. Ma che è sta tristezza? Non pare brutto però dai trailer. Ma no, ma c'ha delle cose buone, però. Poi riconosci questi accenti regionali italiani parlati troppo bene. Sbagliati. Sì, ripuliti, insomma, quelli un po' danno fastidio. Comunque, Itaker vuol dire italianacci in tedesco. È un dispregiativo che i tedeschi usavano per gli italiani. Ma parliamo di Cosimo e Nicole. Vorrei tanto, ma non posso. Perché? È un film che è stato in gara al Festival di Roma, nel quale io lavoravo, e sarebbe un conflitto di interessi intollerabile. Madonna, intollerabile. Ma tu come sei santo? È la regolarità, capito? Ma cioè, sei proprio preciso tu. Sono in odor di santità. Porca miseria. Sei andato al Vaticano? Ne sono uscito. Invece ho visto un documentario che ti consiglio. Ti consiglio anche se non è eccezionale. Però quelle poche cose belle che ha, secondo me valgono tutto il documentario. Ma quello si sulla chiama... natura che abbiamo visto l'altra settimana? No, non è quello sulla natura l'altra settimana. Anche se so che ti piacciono. Quello è bello, a me piace. Ma per carità, sono veramente belli. Poi te ne consiglio un altro. Si chiama It Might Get Loud. Potrebbe essere rumoroso. Ed è un documentario su tre chitarristi che sono stati messi insieme, che sono Jimmy Page, The Edge e Jack White. Sono stati messi insieme da questo Davis Guggenheim, che è il regista, che è un regista tipico di documentari ma musicali. Ma non ci sono qui... No, no, no, questo te lo consiglio io così, nelle migliori videoteche italiane. Adesso capisco. Adesso ho capito, sì. È un documentario sulla chitarra proprio, in realtà, su come suonarla, i diversi approcci, perché poi Page, The Edge e Jack White sono tre approcci completamente diversi. Ne ho sentito parlare, ma non è recente però. No, è di un paio di anni fa. Ah, sì, allora ne ho sentito parlare. Credo di averlo anche visto. Ah, secondo me la parte sono vengono affrontati separatamente, loro tre, e poi li mettono insieme. Li mettono insieme che parlano e suonano, chiaramente. Le parti singole, sia quella di Jimmy Page che quella di The Edge, non sono granché. The Edge perché, insomma, mi ha detto poco e nulla. Jimmy Page perché è una persona che ha poco da dire, molto da suonare, ma poco da dire, proprio. E alle volte dice una cosa di una banalità che ti fanno quasi ridere, perché, Mentre invece quella di Jack White è straordinaria. Sarà anche, mettici anche la mia ignoranza, io non conosco i White Stripes e la sua musica, ma non conoscevo lui, le sue idee, le sue cose, pazzesco, devo dire, sono rimasto. Sì, sì, lui è una grande figura. Sono rimasto impressionato da questa sua poetica di lottare contro lo strumento, il fatto che usa solo chitarracce, solo roba terribile, e poi spesso si fa male suonando, cioè una cosa straordinaria. E la cosa più divertente è che quando li mettono insieme, non è che vadano molto d'accordo, cioè questa cosa non è andata molto bene. Parlano, sì, suonano poco e male, non si impegnano molto. Jimmy Page rompe molto le scatole, dà molto fastidio, il che è molto divertente come dinamica. Però soprattutto sì, in effetti è bello perché poi tutti e tre raccontano diverse ere da come l'hanno vissuta. Cioè, Jimmy Page racconta gli anni 80 in una certa maniera perché li ha vissuti in una certa maniera. Jack White era piccolo e l'ha vissuto in un'altra maniera. Quindi, insomma, è molto interessante da questo punto di vista. Ripeto, si chiama It Might Get Loud. Ciao Sandrina, vorrei fare la contadina ma senza veleni. Grazie Lori. Volentieri, martedì prossimo dalle 18 alle 21 parleremo di questo, anzi riparleremo di questo, quindi rimani, insomma, risintonizzati o resta sempre sintonizzato su Radio Città Aperta. Allora, mentre Sara mi scrive, ciao Faster, volevo ringraziarti per il brano che hai passato una mattina, come fai il brano post-rock degli EF? Sì. Senza di te la tua musica non l'avrei mai scoperto e da un paio di anni suonano questo genere. Mi riferisco anche a me. Grazie a te Sara, davvero, grazie, grazie. Molto bello questo messaggio. Va bene, ma andiamo avanti con il cinema, prego. E beh, quest'è. Di Nuovo in Gioco l'abbiamo detto. Se vivessimo tutti insieme ne abbiamo parlato. Melina, no? Una famiglia perfetta? È quello che ho detto, il film italiano da vedere con Castellitto. Castellitto e poi... Ma questo è il film di questa settimana. I film bomboni non ne escono. No, ma il 2 dicembre esce l'Hobbit. Ma vuoi sapere, vuoi avere una brutta notizia? Aspetta, dillo piano, speriamo. No, beh, no, non così brutto. Speriamo non ci sia Sergio all'ascolto perché lui... Gli viene l'angina. Non potrò vedere l'anteprima dell'Hobbit. Perché? Perché non sono a Roma, sono al Courmayeur Film Festival. tutta questa solfa Courmayeur Film Festival per dire che tu sei un critico che viene invitato ai festival. Ma dai, ci tenevano tanto. È ti prego, vieni, ti prego. Ma è patetica questa cosa. Ti prego, vieni. Io ho detto, vabbè, se proprio insistete, Sara, che devo fare? Senza ritegno. Vabbè, veramente sei senza ritegno. È una notizia come le altre. Noi qui a parlare di agricoltura, di zappare la terra. È una notizia come le altre, insomma. Ma invece sarà mia. Allora, perché questa qui porta a un'altra notizia. Vedete, no, è un ponte. Ti anticipo una cosa. Farà un freddo boia. Può perché essere, dici? Courmayeur ci... Io volevo andare col costume. No, le Courmayeur ci... C'è il mare, eh? Lungomare di Courmayeur. Lungomare di Courmayeur. I tuffi a Courmayeur. Ma come no? Farà molto freddo perché si scia, eh? Occhio. Ma invece questo porta a un'altra notizia. Il mio vero dispiacere, oltre al fatto di non poterlo vedere in anteprima, che però è mitigato dallo stare a Courmayeur, è il fatto che io all'anteprima ho la certezza di una cosa che non so se vedrò al cinema normalmente e mi informerò con chi di dovere e riporterò qua. Ovvero che L'Hobbit è un film che ha una piccola caratteristica di sperimentalità. È il primo film grosso di quelli che escono in tutte le sale, insomma, film di questo livello. Bombone. Esatto, bombone. A essere girato a 48 fotogrammi al secondo. Cioè, da che è mondo, il cinema si gira a 24 fotogrammi al secondo. Cioè, ogni secondo ci sono 24 immagini. Questo è da... non da Illuminati, dal primo film sonoro ad oggi è così. e non ci sono, non si scappa. Mm. Peter Jackson, il regista dell'Hobbit, ha questa sua idea, secondo la quale il 24 fotogrammi al secondo è sbagliato, nel senso che aveva un senso con la pellicola, era una cosa sensata, anche perché poi non se ne può usare troppa di pellicola, se no finiresti a usarne il doppio ed è un casino, costa troppo. Col digitale questa cosa non ha più senso, possiamo girare con più frame al secondo e secondo lui è meglio, chiaramente. Ma è meglio perché le immagini sono, sì, migliori. E la qualità è proprio migliore, perché hai, è facile da capire, in un secondo hai il doppio delle immagini, certo, e quindi la definizione è migliore. Chiaramente il 48 fotogrammi al secondo non solo devi girare a 48 fotogrammi, ma devi anche proiettare a 48 fotogrammi al secondo. Devi avere un proiettore che faccia questa cosa. Di certo l'anteprima per la stampa sarà così, questo lo so perché è stato detto. Non so se a Roma ci saranno cinema attrezzati. Ora, sarà mia premura informarmi. Non esistono proiettori a 48? Al momento non lo so. Potrebbero averlo anche tutte le sale, perché al momento non lo so. Chiederò alla distribuzione del film quante copie in 48 frame al secondo ordinano per Roma e dove vanno. Oh, facilmente. Ah beh, certo. Questa sarà facile. Io credo che di certo sarà al Warner Parco dei Medici. Credo. Perché lì faranno l'anteprima. Per cui dovrebbe rimanere. Lì hanno la macchina. Dovrebbe. Però comunque sarà mia premura. Beh, ma sarà, verrà distribuito in 800 sale, 1000 sale. Esatto. Bisogna vedere quali sono attrezzati. Ad ogni buon conto, il 2 dicembre esce. Non è in 3D. No, che dico il 2 dicembre? Cioè, non esce. Io mi fai una domanda che al momento mi spiazza. Il 13 dicembre. Esce il 13 dicembre. Però non è in 3D. No, mi sembra di no, ma al momento c'ho come un vuoto. Non ti posso dare la certezza. Controllo. Presto. No, qui dice che non dice nulla, quindi plausibilmente non dovrebbe essere non in 3D. Non è. Ma tu hai avuto notizie da chi lo ha visto, cose? Ancora non l'ha visto nessuno. Cioè, in realtà l'hanno visto solamente in Nuova Zelanda, dove c'è stata l'anteprima. Bisognerebbe leggere le critiche, ma insomma, essendo un film così grande, di un paese così piccolo, è difficile che ne parlino male. Cioè, immaginati se l'Hobbit fosse fatto con questo livello di qualità in Italia. Ne parleremo tutti benissimo. Cioè, esatto, è chiaro. Quindi non si può fidare di niente. I nani sono decisi a reclamare la loro patria. Mi refresco. Ho avuto buone notizie invece su Vita di P, che è un film molto particolare che uscirà più avanti, uscirà il 20 dicembre, ma è un film che era atteso. È un film che racconta una storia incredibile, cioè tutto il film è un uomo, una barca all'oceano e una tigre. Questo è il film. È chiaramente un film che, sì, che va molto sullo spirituale. È un film molto spinto sull'esistenzialismo, quei film che sono facilissimi da sbagliare, cioè come niente diventa una cosa noiosissima e intollerabile. È una grandissima produzione alle cui redini c'è Ang Lee, regista di La Tigre e il Dragone, Brokeback Mountain, Lussuria, Tempesta di Ghiaccio, Mangiare bere uomo donna, insomma, un regista abile in queste cose. Ma ho alcune mie talpe che sono andate a un'anteprima internazionale al Festival di New York e dicono che non è niente male, non è niente male. Ma è la trama? Si sa? No, la trama questa è un uomo all'oceano, una barca e una tigre. Ma sì, perché? Lui ci finisce là perché naufraga, però chiaramente a un certo punto si rende conto che questo non è un luogo fisico, è quasi un luogo dell'anima, cioè è finito in un posto al confine tra, insomma. Poi molto, non lo so anch'io perché il trailer è molto vago, non si punta più che altro sulle immagini. Cominciato ad attaccare bottone, ha detto che lei... Eccolo qua. Una storia straordinaria. Vediamo, da dove comincio? Sono nato e cresciuto in uno dei luoghi più belli della Terra. India. Ho vissuto anni meravigliosi, che non dimenticherò mai. Ma quando la mia famiglia decise di trasferire il nostro... Ci vuole pazienza, mi refrescia. Qui. Fu allora che ebbe inizio il mio viaggio più grandioso. Che tempestina! Non finisce bene. La tempestina. Fuori! Ah, ma è un cargo che trasportava animali. Esatto. Adesso mi è più chiaro. Il seguito della storia forse sarà più difficile da credere. C'è una tigre dentro. Tra l'altro, la scialuppa è una tigre, sì. Ma non solo, è una tigre che nell'80% delle immagini che si vedono nel film è finta, è in CGI. Perché la motivazione è molto semplice, ha detto. Perché se usava una vela si mangiava l'attore. Per cui non dovevo prendere una finta. Sì. Beh, le immagini sembrerebbero straordinarie. Infatti è un film su cui io punto molto. Sono contento che mi sia stato riportato che non è niente male. Per meno dalle, cioè, dei panorami, le scene, fantastico. Incrocia quei film naturali che mi piacciono a te. Film. Cavolo, cavolo. Poi sul mare, figurati. Mi inviti a nozze. Sei rapidissimo. No, mi ha incuriosito molto questa cosa. Invece c'è un altro film per te che ti fai arrivare i DVD dall'estero prima che escano in Italia. Sì, cioè, vai. Queste cose da te. The Grey esce settimana prossima. È un film. Allora, è un film che prende un po' di petto la seconda vita della seconda vita professionale di Liam Neeson, che nel film, insomma, fino a un 5-7 anni fa era un attore molto posato, di film di un certo livello, Schindler's List e tutto quanto. Negli ultimi anni Liam Neeson è diventato uno da botte esplosione, Taken, no, Unknown. Questo qua è ancora più radicale. Lui interpreta un uomo che lavora nelle piattaforme di estrazione in Alaska, quindi luoghi terribili, e il suo lavoro è sparare ai lupi per evitare che aggrediscano chi lavora in queste piattaforme. Prende l'aereo per tornare a casa assieme a alcuni di questi lavoranti. L'aereo casca. In mezzo ai lupi. In mezzo ai lupi, pensa tu. In mezzo ai lupi e le nevi, chiaramente. Nel poco, cosa peggiore. Sopravvivono in 6-7 e si devono organizzare, chiaramente. Con i lupi che subito li prendono di mira. Certo. Poi è ammazzato il cugino mio, un amico. Devo dire che il film inizia molto caciarone come questi molti. Dai, su, giriamolo in fretta. In realtà ti conquista sempre di più, perché è un film come ti aspetti, cioè di sopravvivenza umana, molto tosto, però è girato con una certa sapienza veramente, non è un'americanata, questo voglio dire, è un film con un suo perché veramente dietro, e per quanto racconti una storia avventurosa non è esagerato, è veramente... Sono una persona che è appassionata, amante di Liam Neeson, dovrò dirglielo, prima o poi, quando la incontreremo. Ripeto, si chiama The Grey, esce settimana prossima. Ho visto la prima di Cosimo e Nicole. Mi permetto, o rischio qualcosa, pregno di argomenti che secondo me vengono solo sfiorati, insomma è soprattutto una storia d'amore che se fosse nato in un altro luogo anziché durante la manifestazione a Genova avrebbe avuto gli stessi sviluppi. Buona la colonna sonora, brani ambientati al tempo che si stava vivendo. Ho amato molto il corto di introduzione, bello, ricordava la fotografia e il montaggio anni 80, scrive ancora Anna. Però un momento un parere tecnico, devo dire. Però tu queste cose ti sfuggono. No, ma io non posso. Cioè, il film quello lì. Chiedo scusa. Non pensavo, perdono. Direi non intaccare il mio karma. Ce ne andiamo se non abbiamo altro da dire. Io non ho altro da dire. Grazie a tutti e a tutti, ci sentiamo per quel che riguarda martedì prossimo, stessa frequenza, stessa radio. Diamo la palla, vieni Sara, e diamo la palla al Tamagna che è qui dietro le nostre spalle, che salutiamo, buonasera Tam. Però non è che dici diamo la palla e chiami Sara, è un po' ambigua come cosa. Lei è una giocatrice di calcio. Ma dai, veramente? Come no? Allora, sì, guarda. Che sei, stopper tu? Pallonate in pancia. Allora, sì. Squadra che giocava in palla. Giocava in C. Hai voglia. Grazie Sara, è diventata rossa. È il caldo, sì. 50 gradi. Sì, questo qui sì, è un sembra di stare a Nairobi, in effetti. Grazie Vasquez, noi ciao. Ci sentiamo venerdì prossimo, ci sei, no? O parti per qualche festival esotico? Ancora non sono partito. Bene, bene. Quindi ci sarò. Sti festival sotto Natale poi allunghi, l'altro giorno. Poi chiami a casa, dai, salite pure voi. Tanto è tutto pagato. Dai, salite. Cioè, nella suite sono solo. Anche le spa, tutte queste cose. Tipiche da critici. Ah. Proiettano i film nelle spa, capito? Tu stai lì e... Ma hai messo i capelli in bocca, Sara? Io non ricordavo questa cosa. La sensazione di avere dei capelli. Sì, di avere i capelli in bocca. Grazie a tutti e buon resto di Radio Città Aperta. A martedì da Prince Faster è tutto.